è vero che Mario Balotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati su Twitter. Siete tutti convocati perché oggi parliamo parecchio di mercato, partendo dalla Juventus, però parliamo di tutto quello che volete. Avremo anche un ampio spazio dedicato alla pallacanestro, perché tra ieri sera e questa notte si sono consumati gli atti numero 2 e 4 delle finali del campionato italiano e dell'NBA, e poi ne parleremo con Flavio Tranquillo e coach Peterson. Io intanto saluto Marco Bellinazzo, collega del Sole 24 Ore. Ciao Marco, buon Ciao, pomeriggio. Giovanni, buon pomeriggio a te. Da oggi online con www.marcobellinazzo.com per chi vuole scoprire tutti i segreti, non solo del mercato, le trattative, le invoci, le indiscrezioni, ma anche di quello che gira a livello di conti dietro il mondo del calcio. Marco? Sì, soprattutto quelli, soprattutto l'economia o la diseconomia che ruota intorno al mondo del calcio. Il nuovo blog, tra l'altro, chi vuole, chi è appassionato, potrà oggi trovare un piccolo regalo. C'è un ebook assolutamente gratuito che racconta la storia e le vicende fiscali di Maradona e di Messi, balzate alla cronaca in questi ultimi giorni. È un piccolo cadeau, insomma, che per gli appassionati che mi sono sentito di fare, e che permetterà a tanti di conoscere una storia, quella in particolare di Maradona, di cui si è tanto scritto ma di cui pochi conoscono davvero come sono andati fatti. Quali sono i contorni? Un regalo l'ha fatto ai lettori di Tutto Sport questa mattina Tony Damascelli. Buon pomeriggio Tony. Buon pomeriggio a tutti. Io cito il titolo: mercato Juve tra aziende e bar sport. Ho trovato soprattutto l'attacco molto duro nei confronti di questa Juventus. Tony Damascelli è un giornalista, è una firma che conosce molto bene la storia della Juventus, quello che è stato in un passato anche recente e quello che è oggi. Tu scrivi: la Juventus di oggi è una versione moderna del bar sport, una società che nel corso della sua storia si era distinta per silenzio e avvedutezza delle operazioni di mercato, e oggi invece non lo è più. Cosa sta succedendo nel mondo della Juventus? Sta succedendo quello appunto che al quale accennavi tu, che si è preso l'abitudine di parlare molto, di fare molta propaganda sugli acquisti, sulle operazioni, sui movimenti, ma lo fanno alcuni dirigenti chiamati a far mercato, lo fanno addirittura i calciatori, ultimo della fila di questo corteo, Marchisio, che ieri dal Brasile ha fatto sapere che vuole conoscere, che cosa intende fare la Juventus di lui. Ah, veramente lui è sotto contratto, viene pagato puntualmente ogni mese, e non risulta che debba pubblicamente esporre questo tipo di preoccupazioni, però questo capita perché nessuno invita i dipendenti, i calciatori, i tesserati ad avere una disciplina non soltanto di comportamento ma anche di una disciplina verbale, chiamiamola così. Buffon dice che Jovetic verrebbe accolto a braccia aperte, Chiellini parla di Higuain, quell'altro parla, Bonucci parla di Tevez o di Suarez. È un libera tutti che non serve a nessuno. Una volta, ribadisco, sia la Juventus di Boniperti che la Juventus di Giraudo e Moggi, che ho definito gli innominabili, perché ormai non si può parlare di loro all'interno del gruppo juventino, addirittura è uscita una pubblicazione curata benissimo dalla Gazzetta dello Sport, nella quale si ripercorre la storia di questa società attraverso i presidenti, i dirigenti, e ci sono anche fotografie dedicate a Jean-Claude Blanc, ma non c'è nessuna fotografia dedicata ai personaggi interpreti di quel periodo, che comunque ha portato denari importanti alla società e anche scudetti, anche quelli tolti. E questa secondo me è una inversione di tendenza rispetto alla storia della Juventus, tutto qui. Certamente, anche se nel caso di Marchisio io penso, Tony, ma voglio allargare il discorso anche a Marco Bellinazzo, che ad esempio Boniperti, uno come Marchisio non l'avrebbe mai messo sul mercato, e un po' Marotta e Conte lo hanno fatto, perché hanno fatto capire che Pogba sarà titolare, hanno fatto capire che Vidal è incedibile da qualche parte. Marco, la Juventus i soldi per fare il mercato li deve trovare, come capita a tutti, come capita al Milan, all'Inter in misura maggiore, si è deciso che probabilmente il sacrificabile è Marchisio. Ecco, io credo, Marco e Tony, che Boniperti questa scelta non l'avrebbe fatta. Boniperti aveva venduto Anastasi per prendere Boninsegna, che aveva 7 anni di più. Nello stesso anno aveva dato via Cappello per prendere Romeo Benetti. Cioè tu dici che non bisogna nemmeno mitizzare la scelta, no, eventuale della Juventus di far partire quello che tutti in tanti avevano considerato il capitano futuro. Ma sai, il capitano futuro ne abbiamo uno a Roma, il capitano futuro che è Daniele De Rossi. Sì, oggi che ha i capelli bianchi oramai. Insomma, se lui ha capelli bianchi io sono già parvicrinito. Calcisticamente parlando, sì. Insomma. No, il problema è che noi non possiamo pensare che un'azienda, perché oggi il calcio, la Scum Club di calcio è un'azienda, si mette ancora nelle mani di una bandiera. Non, al di là della passione, della fedeltà di questi ragazzi, l'impresa è gestita da un consiglio di amministrazione e non da un gruppo di nostalgici, tutte le aziende calcistiche. Sì, detto questo, Marchisio è un assegno da 30 milioni che a questa Juventus serve, deve partire. Assolutamente, Marco. L'hanno spiegato i dirigenti juventini. Se calcoliamo il monte ingaggi di ammortamenti, cioè quello che è il costo vivo per fare una squadra e mantenerla, è intorno ai 200 milioni, e il fatturato della Juve di poco superiore, questo ci hanno spiegato appunto i dirigenti della Juve. È chiaro che non puoi fare mercato né alzando troppo il monte ingaggi né spendendo troppo, a meno che appunto non ci siano partite di scambio, delle permute, e chiaramente Marchisio è un giocatore che ha tanto mercato, che potrebbe far comodo, dipende appunto da quelle che sono state poi le indicazioni di Conti. Io credo, tra l'altro, Giovanni, che sia anche un po' difficile oggi tenere nascosti tanti movimenti di mercato. Certo, si potrebbe parlare di meno, ma è un'era diversa ed effettivamente l'effetto Bar Sport, per quanto fastidioso, credo sia inevitabile. E poi c'è Twitter, dove tutti, a partire dai giocatori, scrivono tutto quello che vogliono a qualsiasi ora del giorno e della notte, e ho l'impressione che le società non abbiano ancora perfettamente capito qual è l'impatto di questo nuovo strumento. Per chiudere, Tony, poi ti saluto e ti ringrazio, Van Persie, Suarez, lo stesso Tevez, Nani, ho l'impressione, anche leggendo i giornali questa mattina, che a Torino stiano rivivendo degli incubi, perché la vicenda Tevez si è complicata, quella Higuain è ancora più difficile di quanto potesse sembrare 2 settimane fa, c'è un po' il timore di vivere un'estate come quella dell'anno scorso. Ma io penso che ci siamo, nel senso, ecco perché il significato del mio articolo di oggi è proprio quello. Molte chiacchiere, sei solo chiacchiere distintivo, citando il film Gli Intoccabili, che poi sarebbe degli Incorrettibili, tradotto giustamente in italiano, con la frase di De Niro. Io ritengo che la Juventus oggi, questa Juventus dal periodo del 2006 in poi, abbia cambiato totalmente non soltanto la sua struttura societaria, ma la sua maniera di presentare e di esibirsi, ed è sbagliato, secondo me è sbagliato. La dimostrazione non è tanto l'operazione di mercato propagandata che poi illude i tifosi, ma addirittura questa indisciplina da parte dei giocatori, che continuano a occuparsi di cose di cui non dovrebbero affatto occuparsi. L'unico che può intervenire in questa vicenda è l'allenatore, perché è il solo, insieme forse con Andrea Agnelli, ad avere un potere sulla squadra, non certo gli altri dirigenti. Certo, grazie Tony Damascelli. Grazie a voi. Grazie a Tony Damascelli. Noi ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 24, siamo con Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Se avete domande sul mercato, l'aspetto dei conti, poi parliamo del Milan, della Roma, dell'Inter, cerchiamo anche di chiarire qual è lo stato della trattativa tra Moratti e Toira. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Siamo con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Lo sentiamo Claudio Marchisio, le parole di cui parlava anche Tony Damascelli. Marchisio dal Brasile. Leggo cosa scrivete voi sui giornali, per che io non ho sentito nella società e nessun'altra società che mi abbia fatto offerta. Quindi al di là di questo mi baso su ciò che leggo. Quando avrò la possibilità di parlare poi con la società vedremo un po' se Claudio Marchisio è ancora un giocatore importante come lo è stato fino ad oggi per la Juventus. Se non sarà così, se saranno cambiate alcune cose, è normale che poi uno possa andare a guardare altre strade, però per come ho letto io sui giornali c'è scritto che la volontà sarà la mia, no? La parte più importante, però le cose si fanno in due. Se Claudio Marchisio è ancora importante per la Juventus, non devo stare qua a ripetere qual è la mia volontà, lo sapete benissimo. Invece ho l'impressione, caro Marco Ballinazzo, che quando si siederà al tavolo per il rinnovo, quel tavolo non avrà la sua sedia per Claudio Marchisio. Io lo capisco, però credo che vada compresa anche la Juventus, vada compreso il Milan nel discorso che riguarda El Shaarawy. In tanti hanno legato la non incedibilità di El Shaarawy a un discorso puramente tattico e tecnico di compatibilità con Balotelli. In realtà io credo ci sia molto del bilancio e della non volontà di Berlusconi di mettere altri soldi nel Milan, il Milan che ha un bilancio chiuso nel 2012 in equilibrio ma con oltre 50 milioni di plusvalenza per Ibrahimovic e Thiago Silva. In qualche modo bisogna fare anche quest'anno. C'è uno sforzo importante che è stato fatto in Italia da alcune società, in particolare la Juventus e il Milan. La Juventus ha dovuto rinunciare, pochi lo ricordano, ai diritti individuali che le garantivano oltre 110 milioni dalle televisioni quando si è passata alla vendita collettiva. Contestualmente è stato costruito uno stadio, contestualmente è stata fatta una squadra che ha vinto in Italia, dunque si è portato il bilancio verso una situazione di sostanziale equilibrio. Quest'anno 2013 ci sarà una perdita ma molto limitata, molto inferiore a 50 milioni del 2012, e sarebbe un peccato rovinare questo equilibrio lanciandosi in spese folli. E dunque si farà un mercato con delle cessioni intelligenti, giocatori che magari vengono ritenuti poco funzionali o non più funzionali al gioco di Conte, e l'inserimento di altri giocatori. Discorso analogo per il Milan. Il Milan è riuscito ad arrivare a meno 7 al 30-12-2012, riducendo gli ingaggi, facendo le cessioni che Giovanni prima ricordavi. È evidente che ora per fare il mercato, per fare nuovi innesti, per ringiovanire la squadra, si devono fare delle operazioni anche cedendo giocatori importanti. Da Fininvest, da Mediaset non arriveranno più assegni, così come non arriveranno più assegni dalla Salas per quanto riguarda l'Inter. Dunque si deve fare un mercato intelligente, fatto di scambi, fatto di giovani. Chiaramente i nomi importanti fanno gola a tutti, vanno sui giornali, le società arricchiscono il loro aplomb quando parlano di grandi campioni, ma poi senza soldi, cash, è difficile prenderli, almeno rapidamente. Sì, gli amici da casa ci scrivono, perché poi così ragionano i tifosi, 349-238-6666, io non voglio più sentir dire da Marotta che non si può fare, deve portare a casa il top player, oppure è fuori Flavio, oppure ancora su Twitter, chiocciola tutti convocati, è sbagliato vendere uno come Marchisio. È sbagliato se ragioniamo con la logica di qualche anno fa, di 3, 4, 5 anni fa. Purtroppo il calcio italiano in questo momento è questo e non è detto che sia un male. Citavi Marco la Saras, Moratti, è un po' sparita questa trattativa con gli indonesiani, anche se in realtà è ancora viva. Beh, una trattativa che si è allungata rispetto a quello che sembrava qualche settimana fa. A dirti il vero, io ho raccolto alcune informazioni proprio questa mattina su quelli che sono i problemi, insomma, ma diciamo non ho ancora i riscontri per poter affermarle o scriverne. Diciamo però che c'è questa situazione. Leggo di offerte su quote di minoranza o quote di maggioranza come se si trattasse della stessa cosa. In realtà Moratti ha un suo progetto ben chiaro fin dall'inizio, cioè vendere un pacchetto di minoranza, acquisire introiti che gli permettano a di colmare il buco che ci sarà ora il 30 giugno di tra 50 e 70 milioni, b magari di avviare quel progetto stadio, anche se come abbiamo letto e sappiamo poi c'è qualche ripensamento anche su quel fronte. Viceversa, chi è arrivato, Etoir, è arrivato, vuole la torta intera, vuole la torta intera, vuole comandare, mette i soldi, giustamente vuole comandare, e su questa disputa la trattativa ha rischiato nei giorni scorsi di arenarsi, viceversa sta andando avanti perché c'è la ferma volontà di Toir di investire e c'è, tra virgolette, la necessità di Moratti di vendere. Anche perché io provo a lanciare un paradosso, mai come in questo momento l'Inter è una società appetibile. È vero che è una società che è ancora in rosso, chiuderà ancora in rosso, però è anche vero che a me ricorda molto la Juventus del 2006-2007, fatturati al minimo ma con una possibilità di crescita davanti, un'operazione di taglio delle spese che è avviata ed è a buon punto. È un po' come quando si vende una qualsiasi società, anche una ferramenta, il lavoro sporco lo fanno fare a chi sta vendendo. A questo punto sull'Inter si può fare un discorso di prospettiva, ha dei margini di crescita importanti. Credo che sia questo per il ragionamento fatto da Toir e dagli altri investitori che si sono avvicinati al dossier Inter. Mettiamola in questi termini: per creare un Inter davvero competitiva e al passo con i tempi sul piano internazionale, chi arriva dovrebbe spendere quasi 1 miliardo di euro, tra una quota che abbiamo detto e scritto di circa 300 milioni per l'intero pacchetto di maggioranza. Per coprire i debiti occorrono altri 300 milioni almeno al 30 giugno 2012, perché nella semplice sottrazione tra debiti e crediti, poi sul piano finanziario si può dire tutto quello che si vuole, ma insomma i debiti sono 300 milioni. Per fare uno stadio occorrerebbero almeno 300 milioni, ci sono... E poi c'è il mercato, c'è da coprire la perdita al 30 giugno 2012. Ho fatto un po' i conti della serva, ma grosso modo è questo. Per quello, per esempio, il ripensamento sullo stadio, cioè l'ipotesi di restare a San Siro, su un nuovo San Siro da cogestire insieme al Milan, magari allargando all'area del Trotto, può essere anche un modo per togliere dal piatto un elemento che per chi investe poteva essere giocato per pagare di meno, pagare di meno il club. La trattativa va avanti su tutti questi fronti, vedremo, ci vorrà qualche giorno in più, ripeto, rispetto a quello che era possibile preventivare alcune settimane fa, però non è morto il progetto Toir. Sì, ho l'impressione che comunque Moratti ben difficilmente si libererà della società, di fatto, che è quello che in questo momento vuole Toir, cioè vorrebbe poter entrare, comprare, comandare, gestire con i propri uomini, ma è legittimo, insomma, quando uno fa un investimento, come si può pensare che spenda anche solo 100 milioni per entrare al 30% e poi sedersi sul sedile dietro, anche perché gli stranieri hanno imparato, se hanno visto le vicende della Roma, gestire una società in Italia non è ancora semplice. La Roma ha un bilancio che non va bene, cresce come ricavi, io ad esempio non capisco come faccia a gettarsi in trattative che sono onerose come quella per Nainggolan, quando da qui a un paio di settimane Unicredit garantirà ancora gli acquisti dell'anno scorso, e tutto scritto a bilancio, quasi 20 milioni di euro. La situazione finanziaria della Roma è peggiorata in considerazione del fatto che non ha avuto accesso alle coppe europee, alla Champions in particolare. Era questo il progetto iniziale della cordata americana e di Unicredit. Ha chiuso, diciamo, un bilancio molto negativo al 2012, sarà una perdita importante anche nel 2013. Il fatturato, appunto, non riesce a superare ormai 100 milioni, parliamo ormai di una squadra di medie dimensioni, non più una grande. Ha un'aspirazione a tornare grande, giustamente, per la piazza, sì, ma in questo momento per gli non investimenti. Lo è. In questo momento non lo è, e appunto questi affari di cui si parla mi sembrano sproporzionati rispetto alle risorse. Riccardo dalla provincia di Macerata, 800 24 00 24. Riccardo. Ciao a tutti, vi seguo da sempre, complimenti per la trasmissione. In breve, prego. Volevo fare due considerazioni. Io sono un grande appassionato del mercato e ultimamente, nelle ultime stagioni, mi mette una gran tristezza il calciomercato italiano, che sono solo nomi in uscita e mai in entrata. Io sono tifoso juventino, ho quest'anno fiducia nel mercato della Juve. Io personalmente venderei mezza squadra per arrivare a Cavani, ma visto che non arriverà mai in Italia... Andrà a Madrid Cavani. Sicuramente... spero nell'arrivo di Jovetic o di Higuain, di qualcuno di questi nomi qui, spero vivamente. Personalmente venderei Marchisio per fare un po' di gas, anche se è un grande giocatore, perché ho Marrone nel vivaio, che comunque è il nuovo Marchisio, quindi magari nell'onda di Pogba cercherei di far emergere Marchisio nella speranza di prendere questo cosiddetto top player. Per quanto invece riguarda il Milan, vuole essere un investimento sui giovani italiani, vendere Shaarawy anche per 40 milioni per me è una sciocchezza. Però ha sentito il discorso sul bilancio, Riccardo, la ringrazio. Il problema è che poi il mercato lo fa il mercato, cioè se ci sono le richieste per il Shaarawy, il Milan alla fine deve mettersi nell'ordine di idee di vendere il Shaarawy, non può pensare di prendere la stessa cifra vendendo Robinho a un anno dalla scadenza del mercato, del contratto, faccio un esempio, pensando di poter prendere 10 più milioni, oppure lo stesso Boateng che mi risulta essere stato più o meno offerto, ma evidentemente non ha tutte queste richieste. Marco, poi andiamo alla borsa. Brevemente, il sospetto che se davvero arrivasse un'offerta da 40 milioni per il Shaarawy insomma farebbe le valigie in termini molto sicuri e rapidi soprattutto. Accompagnato alla frontiera, credo personalmente, da Gagliani. Tutti convocati. Io credo che los niños, quando siamo piccoli, sempre... Siempre soñamos a que uno imagina, que uno por ahí sueña, decir qué lindo podría ser jugar en el Real Madrid, jugar en el Barcelona, jugar en equipos grandes. Tutti quando siamo bambini sogniamo di giocare nel Real Madrid, nel Barcellona, in questi club. Questa era la voce di Edinson Cavani. Ieri ha parlato la mamma di Cavani, oggi il papà di Cavani, poi almeno i genitori li abbiamo finiti. Però hanno confermato, molto ciarliera, hanno confermato che lui vuole andare al Real Madrid. È un po' che lo dicono... Mi auguro per lui e per il Napoli che ci possa andare presto Cavani a Real Madrid, se è questo che desidera, soprattutto se questo porterà nelle casse del Napoli la clausola rescissoria di 63 milioni e soprattutto che si decida presto, perché il Napoli non può aspettare più i comodi di Cavani o gli incroci di mercato. Sì, perché è vero che c'è la Confederations e quindi credo che per un paio di settimane tutto sarà congelato, però è anche vero che dopo bisognerà correre e il Napoli ha tutti i diritti di fare il suo mercato davanti, anche perché ad esempio Gomez può essere un nome che interessa, però è già un nome difficile da portare in Italia, figuriamoci se uno perde tempo. Trovare un sostituto non sarà semplice. Assolutamente. E il Napoli dovrà essere preparato. Con Benitez nel caso di Mazzarri è andata bene, si è riuscita comunque a portare un allenatore importante e quindi anche per Cavani, qualora partisse, usiamo sempre questa formula, si dovrà trovare... Partirà, perché De Laurentiis lo porterà personalmente da chi, secondo me, avrà un assegno superiore ai 50 milioni di euro, adesso sì, anche senza arrivare a 63. Non sarà così semplice, nonostante quello che leggiamo, perché non è così scontato che anche le squadre più ricche possano spendere tanti soldi. Cavani è un'operazione da 100 milioni tra ingaggio e clausola rescissoria, per cui staremo a vedere. Napoli che non ha certamente problemi di liquidi e di bilancio, i problemi di cui abbiamo parlato prima, ma a prescindere dalla vendita o meno di Cavani. La forza del Napoli è quella, c'è un tesoretto di 20-25 milioni di utili accumulati in questi 6 anni, ci sono alcune comproprietà che se sfruttate in maniera adeguata potrebbero portare altri 15-20 milioni, ci sono i 30 milioni che arriveranno dalla Champions l'anno prossimo. Insomma, c'è un fatturato in crescita costante e importante, e questo Napoli ha fatto salto di qualità. Da questo punto il di miracolo vista. Che ha fatto De Laurentiis. Aldo da Firenze, 800 24 00 24, grazie per la pazienza Aldo. Buongiorno. Prego. Volevo un'informazione, due anzi. Ma essendo la Juventus quotata in borsa, perché non vengono messi dei vincoli anche nei confronti di giocatori dipendenti, tra virgolette? Potrebbe creare problemi. Vincoli in che senso? Si riferisce al discorso di Tony Damascelli. Certo. Della società. E poi? E poi la seconda, io mi ricordo ai tempi passati, credo che si chiamava Umberto Gai, perché non c'è una programmazione economica del marchio Juventus in tutto il mondo? Mi sembra un po' che siano un po' lassativi in questo senso. Una promozione del marchio Juventus, io non credo che questo discorso però sia corretto. La Juventus tra l'altro proprio in queste ore è uscita col nuovo sito, che è un sito che interagisce in maniera completa ad esempio con le piattaforme dei social network, che sono la nuova frontiera della promozione anche del marketing. Si sta e facendo brand, molto certo. Da questo punto di vista per rilanciare e promuovere a livello internazionale il marchio Juventus, così come quelli tutti i top club italiani. Gianluigi da Salerno, prego. Buonasera. Senta, una considerazione sul mercato della Juve. A me sinceramente non piace, perché questi nomi che si fanno, che tra l'altro, come ha detto il direttore Damascelli, sono sempre gli stessi della scorsa estate, sono tra l'altro, a mio avviso, non dei nomi da quel salto di qualità che tanto proclama la società. Cioè, a mio avviso, il tanto proclamato Higuaín, che tra l'altro non si riesce nemmeno a prendere, è un giocatore che io vedo spesso il calcio spagnolo, cioè un giocatore che non gioca, quando gioca secondo me non fa la differenza, e quindi e faccio fatica a pensare come la Juve possa fare questo salto di qualità dal momento che non riesce nemmeno a prendere un giocatore che tra l'altro non è nemmeno titolare. Sì, io credo che se la Juve fatica a prendere Higuaín è perché Higuaín è un giocatore importante, non sarà semplicissimo portarlo via al Real Madrid, ma secondo me, attenzione, una volta che Higuaín sarà ufficialmente sul mercato non bisogna dare per scontato che ci sia soltanto la Juventus, perché Higuaín è un giocatore ancora relativamente giovane, ha 25 anni, è un giocatore che ha segnato tantissimo nella sua carriera. Io ho tirato due numeri di statistica: arrivasse Higuaín alla Juventus, alla sua età arriverebbe con numeri superiori a quelli di un certo Trezeguet, per intenderci. Quindi attenzione a sottovalutare soprattutto Higuaín. Io ho qualche perplessità in più, ad esempio, su Tevez, Marco. Beh, io spenderei una parola su questo salto di qualità, no? si parla di questo salto di qualità come qualcosa di inevitabile o di ineluttabile, o comunque di molto vicino, è possibile. Io ho qualche dubbio, nel senso che per fare il salto di qualità devi far crescere il fatturato, e la Juve ha un livello già molto alto per quelle che sono le sue potenzialità e per quelle che sono le voci di entrata ordinario. Penso allo stadio, penso ai diritti TV che sono bloccati e che anzi dal 2015 potranno magari diminuire se Sky e Mediaset non garantiranno gli stessi più diritti TV della Champions. Quest'anno sono al top, io non so quante altre volte capiterà di dividerli per due il market, con il market pool che viene dall'UEFA, così semplice. Quindi è difficile pensare a una Juve che possa rapidamente andare verso, per esempio, i 300 milioni di fatturati, che sono una soglia che dividono i top club europei da quelli italiani. Per cui il salto di qualità lo si fa costruendo lentamente una squadra che poi può iniziare a affermarsi anche in Europa e che magari, come dire, intraprende un percorso di crescita anche con delle cessioni eccellenti, e il caso Marchisio potrebbe essere una di queste. Sì, io credo che se la Juventus arrivasse Higuaín farebbe davvero un'ottima operazione, anche dal punto di vista dell'età del giocatore. Nicola dalla provincia di Chieti, buon pomeriggio. Sì. Prego. Salve, chiamo per quanto riguarda, buon pomeriggio a tutti, chiamo per quanto riguarda la Juventus, il mercato della Juventus. Non capisco perché si stia dietro Jovetic e non investa invece su Mario Gomez, quando invece lo sta facendo la Fiorentina. E io credo che perché Jovetic piace a Conte, poi le scelte le fa l'allenatore da questo punto di vista, e Jovetic è un giocatore che Conte ha già seguito e fatto seguire l'anno scorso, e io credo che quest'anno sia il momento giusto per chiudere quel cerchio, sempre ammesso che la Juventus possa farlo, perché magari non saranno 30 ma sono anche in questo caso tanti soldi. Grazie Nicola. Marco da Reggio Emilia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, prego. Io parlo per Marchisio, volevo dire che non è possibile vendere Marchisio, perché avendo già Pirlo che ha 34 anni e non si sa quante partite giocherà il prossimo anno, perderemmo sia Pirlo che Marchisio. Cioè non si può perdere così due giocatori a centrocampo, perché Pirlo ha già una certa età. Pogba servirebbe per sostituire Pirlo, ma Marchisio che lo sostituisce? Io credo che Pogba nemmeno sostituisca Pirlo, ho l'impressione che l'esperienza di questi mesi, una volta che Conte ha cominciato a farlo giocare con continuità, ci dica che forse Pogba è proprio il giocatore che invece permette alla Juventus di pensare di cedere Marchisio. Ma poi Marco, lo abbiamo spiegato, sono i numeri che decidono. Chiaro, il mercato. Credo che il parametro principale sia quello economico e quello non tattico sportivo. È chiaro che un giocatore come Marchisio farebbe ancora comodo alla Juve, così come a tante altre squadre. Però se ci fermiamo al discorso tattico, anche delle emozioni, perché Marchisio, lo abbiamo detto e lo stanno dicendo i tifosi juventini in queste ore, è un pezzo importante di questa Juventus. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, Marco. In tanti ci hanno chiesto del Monaco e del fair play finanziario. Gira questa offerta da 100 milioni di euro per Cristiano Ronaldo, poi è tutta da verificare. Quello che invece sappiamo già adesso per certo è che mai il Monaco potrà essere all'interno dei parametri del fair play dell'UEFA. Chiaramente, il Monaco è una squadra che l'anno scorso, nel 2012, fatturava poco meno di 20 milioni.